Salvadanaio. Buongiorno, ben ritrovati in questo venerdì 17 per fare il pieno, proprio così. Il pieno che costa anche 20 euro in più rispetto a qualche mese fa. È la denuncia del Codacons. Oggi dunque ci concentreremo su questi rincari della benzina. C'è chi ha parlato di speculazione d'agosto. Rimangono, al di là dei giudizi, le cifre. E soprattutto, e questo è quello che preme a noi, a Salvadanaio, come tutelare i consumatori? Come difendersi da questi rincari eccessivi? Primo consiglio che ci è stato dato è: tenete gli scontrini. Nel caso vi sia capitato di essere costretti a rifornirvi sopra la soglia dei 2 euro o comunque in quella zona, cominciate con il conservare gli scontrini, perché potreste presto farne un buon uso. Quale? Lo scioglieremo tra pochissimo, questo interrogativo. Intanto comincio a darvi alcune coordinate, sempre numeriche, questa volta sono numeri di telefono, se volete partecipare. 800 24 00 24. Come risparmiare, se è vero che l'auto ormai, un'auto di media cilindrata, costa in media in Italia 3.500 euro l'anno, secondo gli esperti dell'Automobile Club Italia. Un calcolo che si compone di diverse voci, non solo del carburante, naturalmente sono inclusi la manutenzione, i parcheggi al garage, i pedaggi, le multe, l'assicurazione, un'altra voce molto che incide decisamente su questo prezzo, e fa diventare la macchina un bene di lusso. Come arginare di fronte alla disoccupazione crescente, alle difficoltà delle famiglie, questi costi che a volte non si possono eliminare, soprattutto per coloro che la vettura la usano per lavoro e sono costretti a spostamenti su tratte dove non esiste alternativa. In questo senso sono più fortunati coloro che vivono in città, per esempio, di chi vive in piccoli centri, per cui è quasi obbligatorio l'utilizzo di tangenziali e autostrade. Il numero di telefono ve l'abbiamo dato, ora i messaggi SMS, se volete inviarne, il numero è 349-238-6666. Cominciavamo dagli scontrini, questi scontrini da conservare. E perché dovremmo tenerci questi pezzi di carta che spesso generano semplicemente frustrazione? Lo vogliamo chiedere al presidente del Codacons, Carlo Rienzi, oggi nostro ospite, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Perché tenersi gli scontrini? Ma guardi, noi gli automobilisti non sono difesi da nessuno, e tanto meno dal governo, ma è chiaro il perché, no? Perché più costa la benzina, più soldi fa il governo, lo Stato, più fa cassa, più fa liquidità, e quindi si presenta poi in Europa dicendo che c'ha qualche soldino in più. Ma questo non è possibile, noi ci dobbiamo difendere da soli, ma per difenderci da soli dobbiamo ricorrere a tutti gli stratagemmi possibili, strade che il diritto ci dà, per esempio quella di segnalare, da oggi noi chiediamo ai consumatori di segnalare al mio blog carlorienzi.it dove pagano la benzina sopra 1,8 euro, cioè sopra 1,8 euro, perché secondo noi sopra quella somma c'è una speculazione che può essere anche il reato di aggiotaggio, ragione per la quale conservare gli scontrini significa che se si apre un procedimento penale, come noi auspichiamo, perché manderemo le segnalazioni alla Guardia di Finanza, allora questi poveri passeggeri, viaggiatori che hanno pagato troppo potranno richiedere indietro i soldi costituendosi parte civile. Cioè non abbiamo grandi difese oltre questa, e poi qualche consiglio forse da dare. Qualche consiglio sui comportamenti. Ma tornando alla situazione odierna, Rienzi, è il 17 agosto. Ieri avete denunciato per primi, e poi sono arrivate segnalazioni anche da altri, di come la benzina sia arrivata a costare in autostrada 1,98 euro al litro. In alcune zone d'Italia ha addirittura superato i 2 euro. E non è possibile evitare questo tipo di comportamenti che immancabilmente in occasioni di esodi, anche se questa definizione ormai è un po' sprecata, visti gli spostamenti odierni rispetto a qualche anno fa, ma possibile che ogni volta ci troviamo a dover parlare delle stesse cose? Ma guardi, queste segnalazioni sono dei consumatori. La società Autostrada sostiene che invece sull'autostrada la benzina costa addirittura meno che fuori. Allora noi chiediamo di segnalare questi prezzi. Noi, la sensazione è che costi di più, e questa è una cosa veramente abominevole, perché è una sorta di ricatto, nel senso che io non è che posso consumare la benzina per uscire dall'autostrada e andarla a fare fuori, chiaramente, quindi sono costretta a farla dentro. Sicuramente Autostrada si deve inventare qualche cosa. Quando dà le concessioni a questi signori che mettono le pompe sull'autostrada, deve mettere dei paletti ben chiari, cioè la benzina non deve costare più di fuori, altrimenti non deve dare la concessione. Cioè bisogna che le autostrade si mobilitino insieme ai consumatori per evitare quello che è un salasso ricattatorio che è inammissibile. Quindi intanto segnalate dove trovate più di 1,8 anche in autostrada, perché anche lì noi faremo denunce e denunceremo anche alle autostrade, chiedendo loro di irrogare se possibile sanzioni o comunque di prendere provvedimenti. Ora, questi scontrini di cui parliamo naturalmente sono le ricevute nel caso paghiate con carte di credito, come sempre più spesso si fa, visto anche l'ammontare ormai di un pieno, o con delle carte bancarie. Visto che abbiamo dato dei numeri, e questa stangata a cui faceva riferimento il Codacons, secondo lei, Renzi, a quanto ammonta giornalmente in totale per tutti gli automobilisti che circolano in Italia? Ma guardi, attualmente un pieno costa almeno 20 euro in più, mediamente. Ora, in più di quando? Di quando? Rienzi? Negli anni passati, noi vediamo che, per esempio, con prima dell'avvento dell'euro, il 2001, la benzina costava esattamente la metà, cioè costava quello che oggi potremmo in euro dire 1 euro e 51 centesimi. Adesso è raddoppiata, ma segue dei criteri che sono inspiegabili, e poi la cosa che è veramente inaccettabile è che aumenta, guarda caso, sempre il 1° maggio, quando si fa l'esodo, quando si fa la gitarella del 1° maggio, a Ferragosto, quando si fa la gitarella di Ferragosto, cioè quel poco che ormai rimane a noi italiani, che abbiamo finito tutti i soldi di vacanza, ecco lì che arriva con la stangata, perché si deve speculare sul fatto che io quei 3 giorni mi viaggio. Ecco, è una cosa veramente inaccettabile, su cui qualcuno, e mi riferisco al governo Monti, perché parla di tutto, spread di qua, spread di là, ma non si preoccupa assolutamente di questi problemi, che sembrano piccoli problemi, ma sono problemi di sopravvivenza e di salvaguardia di quel poco di vacanza che ci possiamo permettere. Prezzo del combustibile, dunque, costituito naturalmente da diverse voci. E da cosa esattamente? Vogliamo chiederlo al presidente di Nomisma. Buongiorno e benvenuto in trasmissione. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Ora, in questi giorni la rabbia, la temperatura e non solo il prezzo della benzina sta salendo decisamente alle stelle. Quindi è il caso, sempre quando si affrontano questi temi, di dare numeri, specificare quali sono le componenti, per esempio quelle delle accise, quelle dell'IVA, quelle del prezzo del combustibile. Da cosa è determinato il costo di un litro di benzina? Attualmente siamo intorno a 1,85 per il prezzo della benzina, il carburante meno importante rispetto a quello più importante, che è il gasolio. Comunque, rimanendo sulla benzina, 1,86, circa 1,10 sono tasse. Abbiamo poi un 60 centesimi di prezzo internazionale di importazione, questo famigerato Platz, e 16-15 centesimi sono i costi di distribuzione dal porto di importazione fino al punto vendita al distributore, di cui 4 centesimi sono quelli che diamo al colui che ci fa la benzina, al gestore. E pertanto la tassazione conta per il 65%. Perché secondo lei, e ce lo chiede anche un ascoltatore, le giro il quesito, si alza subito la benzina quando sale il prezzo del greggio, ma non cala con la stessa velocità quando il prezzo scende? Questa è una percezione dei consumatori in tutto il mondo per moltissimi beni di largo consumo con prezzi così variabili come la benzina, che non esistono, perché dipende da un prezzo della materia prima quotato sulle borse delle commodity, molto oscillante. I consumatori hanno questa impressione che salga velocemente e scenda lentamente. In realtà questo ritardo non c'è, adesso addirittura le compagnie stanno facendo dei prezzi che sono inferiori a 4 centesimi rispetto a quelli che dovrebbero essere, visto il forte aumento che c'è stato negli ultimi 20 giorni del prezzo dell'olio greggio. questo agitarsi di questi giorni, questa denuncia di questa speculazione agostana non ha fondamento, Tabarelli? Allora, esistono, dunque, il nostro prezzo in Italia è stato liberalizzato il 16 settembre del 91 e da allora si fa riferimento a meccanismi di mercato. Esistono delle autorità, l'autorità garante della concorrenza che ha fatto 3 indagini, ha vigilato, esiste il Ministero dell'Industria, attualmente sviluppo economico, con l'osservatorio prezzi che gli sta dietro. Noi nella nostra piccolo studio facciamo analisi molto semplici ma altrettanto solide e non c'è speculazione secondo noi. Torneremo su queste parole che naturalmente fanno riflettere. C'è chi sta peggio di noi? Siamo veramente quelli messi peggio in Europa o addirittura nel mondo per quel che riguarda il prezzo del combustibile? Le componenti le abbiamo dette, sono il costo internazionale del prodotto, il guadagno dei petrolieri e dei gestori della pompa, le accise, poi le potremo anche nominare, l'IVA che si applica sia alla componente industriale che all'accisa. E dunque sono diverse le voci che incidono poi su questo salasso che in questi giorni sta colpendo non solo le persone che si muovono in vacanza, c'è sempre questa immagine dell'esercito dei vacanzieri che sarebbe in qualche modo danneggiato da questo rincaro della benzina, ma non sono gli unici, c'è anche chi in agosto si muove per lavoro, per necessità, per questioni sanitarie, insomma sono diversi i bisogni legati all'utilizzo dell'auto. Voglio ringraziare per la sua presenza anche il presidente dell'Automobile Club Italia, oggi nostro ospite, buongiorno a Sticchi Damiani, buongiorno. Buongiorno a lei. Angelo Sticchi Damiani, e noi abbiamo aperto con un dato che voi avete fatto presente in questi giorni. Non c'è solo il carburante, ma l'assicurazione e tanti altri costi di manutenzione che continuano a lievitare e che rendono ormai l'auto un bene di lusso. Ma quando lei parla di auto, bene di lusso, uno pensa a una vettura di grande cilindrata, insomma, a un SUV, a una di quelle auto da corsa quasi. Ormai un bene di lusso avere anche una piccola utilitaria. Sì, purtroppo sì, il costo del mantenimento di un'autovettura anche di media e piccola cilindrata è diventata veramente insostenibile per molte famiglie italiane e questo naturalmente comporta fatalmente una serie di fattori negativi. Primo, la disaffezione nei confronti dell'auto, il crollo delle vendite delle autovetture, meno 21% a luglio, la dice lunga, ed è un bollettino di guerra quello che sta accadendo in questi mesi per ciò che riguarda la riduzione del numero delle autovetture vendute. Ci stiamo dirigendo verso un numero incredibilmente basso, parliamo di 1.400.000, forse addirittura 1.300.000 di vetture vendute nel 2012, questa è la previsione, contro i 2.500.000 di 3 anni fa. Siamo molto al di sotto della massa critica, questa era una nazione che aveva una struttura, una rete di vendita che era stata evidentemente dimensionata per numeri totalmente diversi. Il minimo che lei ha citato nella vendita delle vetture è già stato toccato in precedenza, era l'anno 1979. Ora, alcuni possono anche vedere in questo un cambio di mentalità degli italiani che hanno abbracciato dei comportamenti più compatibili con l'ambiente, che rispettano quanto viene detto anche dagli organismi internazionali in termini di emissioni, italiani che hanno scelto di utilizzare di più i mezzi pubblici. Sarebbe bello se fosse così. In realtà molto spesso è semplicemente l'incidenza economica sul budget familiare a determinare la rinuncia al rinnovo dell'auto. Ci sono altri tipi di automobili che invece vanno in controtendenza. Pensate che le immatricolazioni di GPL da gennaio a oggi sono il 150% in più rispetto ai primi 8 mesi dell'anno scorso. Questo a dimostrazione che quello che si sta rincorrendo ancora una volta è la convenienza del pieno. Se si sommano queste immatricolazioni poi a quelle delle auto a metano, abbiamo un segmento di mercato del 13,4%, cioè nonostante la pesantissima crisi dell'auto, GPL e metano hanno triplicato le vendite rispetto al agosto scorso, quindi da molti questa è una strada obbligata. Ora però vorrei chiederle, Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club, per chi si fosse messo all'ascolto da poco, quali alternative per ridurre il costo dell'auto? Voi ne indicate una in particolare che riguarda l'assicurazione. Sì, io però, se mi consente, volevo aggiungere una cosa molto importante a proposito dell'ambiente, perché purtroppo non è così. Non è che questa riduzione delle vendite delle vetture comporti dei benefici di carattere ambientale, tutt'altro. Noi ci troviamo con un parco circolante molto più vecchio rispetto a tante nazioni europee, abbiamo un'età media di 8 anni e tenga conto che questo comporta un danno sia dal punto di vista delle emissioni sia dal punto di vista della sicurezza, perché le autovetture moderne sono molto più sicure. Chiaro, delle non più è vecchie. Una riduzione dovuta a scelte virtuose o attenzione ambientale, è solo dannosissimo, ma tutto semplicemente questo. Non ci si può permettere di cambiare l'auto, questo non significa che ne circolino di meno. Tra pochissimo daremo la voce anche agli ascoltatori che stanno attendendo in linea, 800 24 00 24 per le vostre chiamate, i vostri contributi, naturalmente un tema che tocca a tutti, però vogliamo chiedere a Sticchi Damiani, qual è l'intervento che voi giudicate molto incisivo, molto efficace a livello di RC Auto? Perché in questi giorni si parla solo del costo della benzina, quando in realtà sono tante le voci che incidono sul mantenimento dell'auto di famiglia. Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo già nel mese di aprile scorso inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, senatore Monti, una proposta abbastanza semplice. Erano quattro modifiche alle norme che non richiedono nessunissima iter parlamentare complesso. Cioè, noi diciamo sostanzialmente, primo, è mai pensabile che in Italia ci siano 2 anni di tempo per denunciare un sinistro, 2 anni, cioè anche la persona più distratta, più impegnata, più occupata, io credo che 90 giorni siano più che sufficienti. 2 anni sono un termine che invita i truffatori a organizzare una truffa, e questo naturalmente, come puoi immaginare... Certo, ridurre i tempi per disincentivare possibili truffe alle assicurazioni. Poi? Ha detto poi, 4 punti, gli altri 3. La seconda cosa molto importante è quella delle officine convenzionate, come devo dire, e di fiducia delle compagnie. Questa cosa era già nel decreto delle liberalizzazioni e poi è stata eliminata, cioè in sostanza noi diciamo che ci deve essere una rete certificata. E solo lì si possa fare riparare il danno dopo un eventuale incidente. Certo, non si può andare dall'amico, figlio, cugino o conoscente, ci siano queste officine convenzionate come all'estero, per cui subito un danno si va a quella più vicina a casa e quella provvederà al cambio del fanalino piuttosto che della portiera. Adesso sto entrando in dettagli naturalmente generici e ipotetici, così che non si possa alimentare anche in questo caso la fattura. Poi obbligo di analisi strumentale in caso di colpo di frusta. Esatto. Che significa? Quello già un pochino è stato introdotto dal decreto sulle liberalizzazioni, ma andrebbe ancora più incentivato questo discorso per evitare questo famoso danno che si ha molte volte soltanto perché si lamenta un dolore e niente di più, quindi indagine strumentale. Un'altra cosa importante è definire una volta per tutte la tabella dei danni morali. Noi abbiamo delle tabelle altissime per il danno morale e, come lei sa, è assolutamente sproporzionato rispetto al resto d'Europa. E noi ci rendiamo conto che la perdita di una persona cara comporta sicuramente un gran dolore, ma tutto va regolamentato in una maniera che sia più coerente e simile al resto d'Europa. Al resto d'Europa, cioè lei dice allineato. Grazie naturalmente per questo intervento. Non di solo carburante dunque vivrebbe la possibilità di sostenere, mantenere un'auto senza che questa diventi un bene di lusso, come è stato denunciato anche dai consumatori. consumatori. Intanto continuano ad arrivare i vostri SMS, c'è chi stimola e incita l'utilizzo di auto a metano e gas. Questo è uno dei messaggi più ricorrenti, ringraziamo Marco e coloro che l'hanno inviato. Le auto a metano però costano di più, costa di più la manutenzione, risparmi solo se fai pochi chilometri, senza contare che ti tolgono il piacere della guida. Anche questo è un elemento che ci viene segnalato da Luca da Pisa. Ora da Roma abbiamo in linea ad Alberto. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, senta, io da molti anni ho una macchina GPL. Una cosa che mi ha sempre stupito e mi farebbe piacere avere un parere di qualche rappresentante di qualche compagnia petrolifera è il fatto che fuori dai distributori non viene mai indicato il prezzo di destino. Il prezzo di destino che tra un distributore e l'altra spesso oscilla anche tra distributori vicini e oscilla intorno al 10% di differenza. È una cifra folle, abissale. In Calabria mi è capitato qualche anno fa, ho notato due distributori a distanza di pochi chilometri l'uno dall'altro, c'è una differenza di oltre il 15%. Cioè lei dice ad Alberto, guidando lei non può scegliere, finché non è già entrato nel piazzale, il distributore a cui rifornirsi, perché non è indicato fuori, almeno non sempre. Esatto. Io tra l'altro all'AGIP non voglio parlare male, all'AGIP non ci vado mai perché so che è caro, allora preferisco sobbarcarmi 5-6 km in più, andare ai distributori indipendenti e risparmio tranquillamente quei 3 euro al litro che mettiamo uno che fa un rifornimento a settimana, a fine del mese, alla fine dell'anno sono tanti. Ecco, quanti pieni fa lei in un mese più o meno? Mediamente un pieno a settimana. Quindi parliamo di 4 pieni e con una differenza, lei ha detto che può rivelarsi di quanto al litro sul GPL? Diciamo tranquillamente sui 3 euro al litro. No, 3 euro al litro, 3 euro al rifornimento forse. È più caro. 3 euro, no, al pieno, 3 euro a pieno, quindi insomma un risparmio anche per voi che avete già il GPL di circa 12 euro al mese. Grazie per questa segnalazione, ci è arrivata da Roma, da Adalberto. Tra pochissimo ci sposteremo invece a Firenze dove ci aspetta Marco. Prima però, che tempo fa? Salva Danaio. E torniamo a parlare di benzina, carburante, non solo, del costo dell'auto in generale. L'accisa, ci chiedeva un ascoltatore, nel dettaglio è un'imposta sui consumi, cioè l'IVA è proporzionale ed è in percentuale. L'accisa si esprime sulla quantità, cioè è un tot fisso al litro e in generale... Diciamo che sono imposte che hanno un obiettivo, sono imposte di scopo e sono state introdotte dai vari governi per raggiungere degli obiettivi e leggerle è piuttosto divertente. Noi paghiamo 0,001 euro per la guerra in Abissinia del 1935 ogni volta che ci riforniamo. 0,007 euro, un millesimo di euro per la crisi di Suez del 1956, non potevano mancare 5 millesimi di euro per il disastro del Vajont del 1963. C'è stata l'alluvione a Firenze nel 1966, lo ricordate? Bene, 5 millesimi di euro anche lì, poi il terremoto del Belice e così via. Insomma, per un totale, ora siamo arrivati con il costo della benzina intorno a 1,85, un totale segnalato anche di 2,25 euro, più della metà del prezzo alla pompa è determinato da queste accise. C'è stata la manovra economica del 2011 che ha confermato le accise introdotte nel 2011 con la manovra Salva Italia. Sono state introdotte anche delle addizionali regionali nel 2012. L'IVA si applica nella misura del 20% sia sul prezzo del carburante sia sulle accise. E questo per soddisfare chi ci chiedeva via SMS di scomporre tutte queste imposte di scopo. Ancora buongiorno da Irene Zerbini, dai nostri ospiti. Voi potete continuare a darci le vostre segnalazioni al 349 238 6666 SMS oppure chiamarci all'800 24 00 24. C'è chi ha visto in autostrada un distributore ben oltre la soglia dei 2 euro. Buongiorno Marco, lei in onda. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Marco, ci dica cosa ha visto. Beh, sinceramente, sentivo praticamente la luna di Firenze, queste accise, queste cose. Ad dell'impossibile, perché sono dovuto uscire in Prunita a fare gas da benzina a 1,86 euro, perché è diventato impossibile viaggiare in autostrada. 2,25 euro, volevo fotografarlo, non posso dire il distributore ovviamente. Cosa ha detto? 2,25 euro? E quando? Oggi? Oggi. E praticamente, cioè, è diventato impossibile, affinché io sono dovuto uscire per fare benzina fuori dall'autostrada. E oggi programmiamo un viaggio in autostrada, mettiamoci conto che sicuramente troveremo delle bellissime sorprese. E se ritorna su quella tratta, le suggeriscono i consumatori questa foto che non ha scattato prima la faccia, e la segnali sul sito, così che si possa fare qualcosa per una tutela collettiva. Almeno questo suggerisce Carlo Rienzi del Codacons. Pensate anche a una class action, Rienzi? No, una class action non è possibile, perché l'acquisto viene fatto da singoli distributori. Però ecco, rispetto a quello che si è detto prima, intanto sul prezzo, che non è vero che dice Nomisma che cambia, è solo una percezione del consumatore, cioè, certo, Nomisma ha fatto una bella ricerca e ha scoperto l'ombrello, cioè che il prezzo segue quello del brand di Londra, ma non ha acquisito un solo contratto di acquisto del greggio vero da parte dei petrolieri, che speculano così, comprano dalla Nigeria su una nave, un bastimento, il petrolio a un decimo di quello che poi fanno risultare rispetto ai bilanci italiani, rispetto al prezzo di Londra. Ecco, allora facesse una ricerca in questo senso. Riguardo all'altro ascolto, l'altro. Ma diamo prima la possibilità, scusi Rienzi, un attimo, diamo prima la possibilità a Davide Tabarelli di replicare questa sua osservazione. Tabarelli. Sono d'accordo con Rienzi, il problema va ben distinto. A livello internazionale esiste un problema di inflazione del prezzo del petrolio straordinario. Per 20-30 anni guardavamo $30 per barile come un prezzo altissimo. Adesso siamo a 100, 110, 115 ieri, pertanto nei prossimi giorni vedremo altri aumenti. Sul mercato internazionale, sulle borse, esiste speculazione, se la vogliamo chiamare così. Lì ha provato Obama a intervenire, non ci riesce. Noi da qua possiamo urlare, ma tra l'altro siamo il paese più importatore di idrocarburi, quel poco di petrolio che abbiamo non riusciamo a farlo. Comunque è lì che dobbiamo concentrare l'attenzione. Nella distribuzione di carburanti lavorati all'estero, un sistema soprattutto internazionale, è importato qua la benzina, è distribuita, lì ci sono 20 centesimi, 15 centesimi di costi che sono molto pochi, non c'è neanche il margine per fare delle speculazioni. Tra l'altro all'estero, Tabarelli, come lei sa, è ben più diffusa l'automazione, cioè il self-service. Anche questo serve a far risparmiare i cittadini? Ma guardi, noi grazie o per colpa del fatto che abbiamo strani orari, che ancora non abbiamo liberalizzato, nonostante 40 anni se ne parli di orari, abbiamo però un alto numero di self-service prepay, cioè nel resto d'Europa fanno tutti la benzina da solo e poi vanno alla cassa a pagare. Noi in Italia invece abbiamo tutto un sistema molto confuso, complicato. Abbiamo tanti self-service quando il punto vendita è chiuso, abbiamo il self-service quando è aperto andiamo alla cassa, e poi abbiamo tantissimi serviti. Gli italiani amano essere serviti, e anche questo crea un sacco di complicazioni, ma ha ragione lei, nel resto d'Europa molto diffuso il self-service, carte di credito che non costano niente, insomma il nostro sistema oggettivamente è molto meno efficiente. Su questo si cerca di lavorare da 40 anni, i risultati sono purtroppo molto magri. Diamo un'occhiata fuori dai confini, 22.800 punti vendita in Francia, di questi il 33% sono self-service, 14.578, siamo arrivati proprio a contare anche l'ultima pompa di benzina in Germania, e di questi 96% sono self-service. In Spagna il 35% sono self-service, nel Regno Unito il 96%. In Italia 2.000 distributori no logo, pompe bianche su un totale di 24.000 distributori. Ora, I consigli che abbiamo raccolto finora per arginare questo caro prezzi totale sull'auto, questa pressione fiscale eccessiva, carburante in primis, ma anche, come avete sentito, RC Auto, vanno dall'utilizzare appunto distributori no logo alla liberalizzazione degli orari dei prezzi, a cui faceva accenno Tabarelli di Nomisma, l'utilizzo di auto GPL. Che altro si può fare, Carlo Rienzi? Ma intanto approfittare di queste promozioni che stanno facendo, e che dobbiamo ringraziare l'ENI, ma anche qui si capisce la cultura dei petrolieri. Quando l'ENI ha fatto questa cosa, e attenzione ENI, non vorrei che negli altri giorni della settimana poi non controllate, per cui le pompe alzano per recuperare quello che hanno perso durante il weekend, quindi fate molta attenzione. Dico però, le altre società si sono messe, hanno addirittura denunciato l'ENI all'antitrust, hanno fatto ricorso una pompa, ieri c'è stata la sentenza al Tribunale di Lanciano, era anche il Codacons presente a fianco all'ENI, hanno fatto ricorso dicendo che era troppa concorrenza, cioè, mentre invece questo meccanismo ha scatenato una concorrenza virtuosissima, perché poi è venuta dietro la ESSO, credo la IP e tante altre. Quindi bisogna che queste promozioni proseguano, perché sono la dimostrazione che la benzina può costare di meno. Non ci vengono a far ridere dicendo che non può costare di meno, e questo perché sappiamo noi, e Nomisma lo sa e lo ha riconosciuto anche adesso, il greggio che viene acquistato all'estero con contratti che sono segreti di Stato viene pagato un decimo di quello che è il prezzo ufficiale del brand di Londra. Quindi è lì e che su questo è non c'è trasparenza, lei dice. Esatto, trasparenza. Perché su questo si potrebbe controllare. Ma che paese siamo noi che invochiamo liberalizzazione ogni piesso spinto e poi ogni volta che qualcuno osa applicare un prezzo inferiore alla concorrenza o addirittura rimanere aperto quando la concorrenza chiude, gridiamo al complotto? E questo non vale solo per i gestori di pompe di benzina, ma anche in altri settori ci siamo dimostrati campioni in questo comportamento. Andiamo a Cremona. Buongiorno Pierluigi. Sì, buongiorno dottoressa Zerbini. Innanzitutto complimenti per l'intera programmazione della Radio 24. Grazie, girerò. Adesso però lei guida, cosa guida, ha notato? No, le spiego, io non voglio fare pubblicità, io ho preso la multipla della Fiat perché è un prodotto che mi è piaciuto, sì. E sono forse uno degli unici stupidi in Italia che prima ha preso la multipla a metano, la Natural Power, perché mi ero documentato. Perché risparmiava, immagino. No, non solo, ai tempi del 2007 sembrava che il metano avesse, non so, libero accesso alle navi, ai box, ai silos a pagamento. Invece? Sembrava quasi che ci fosse uno sviluppo della rete distributiva, perché si diceva che il metano bastava creare dei punti di distribuzione collegati ai metanodotti, e invece devo dire che sono l'unico che poi è passato, ho preso lo stesso prodotto, dopo 10 mesi di possesso della metano, sono passato alla multipla a gasolio. Ma perché? Perché non ha trovato quella rete? Perché alla fine, se uno poi doveva cercare il punto distributivo, soprattutto sulla rete autostradale, per assurdo lei guardi, mentre uno torna giù dal Basso Italia, io adesso sto chiamando la Calabria, no? Sì. Se uno torna dal meridione verso l'Emilia, verso Piacentino, mi sembra che a venire in su c'è un punto di distribuzione. Dalla parte opposta. Come uno? No, le spiego. Uno solo? La cosa che mi ricordo, no? Sì. Che a venire su verso Piacenza c'è un punto di distribuzione del metano da Roma a venire su verso Milano. Il distributore di fronte per andare verso giù invece non è fornito di distribuzione di metano. Capito, quindi uno dovrebbe saltare la carreggiata, dovrebbe uscire poi rientra. Terribile. E quindi uno doveva, prima di partire, mettersi in viaggio, prendere una cartina, capire dove non... Terribile. Grazie per Luigi che ci ha segnalato questa lacuna. Non è l'unico. Devo dire che anche via SMS ci dite che, per esempio, nella città di Torino, in tutto, ci siano 3 distributori di metano. Ci chiede Antonio, ma questo è normale? E poi ci sono gli scettici che dicono, quando compreremo tutti auto a metano GPL, questi aumenteranno, la benzina calerà sempre che non sia finita. Questa è una segnalazione che ci arriva da Bologna e la firma è di Stefano. Per i vostri sms 349-238-6666 e per le telefonate 800-24-00-24. Anche voi vedete prezzi strani sulle autostrade? Segnalateceli. Intanto andiamo a vedere qual è la situazione della viabilità in Italia. Salva Danaio. C'era chi parlava dell'horror vacui, cioè in pratica era un concetto fisico di paura, c'era spavento del vuoto, ormai c'è la paura del pieno, c'è il terrore. Ma c'è chi sta peggio? Ci chiedevamo. Ancora buona giornata da Irene Zerbini, oggi a Salvadanaio, se avete acceso da poco. E ci siamo chiesti non solo perché la benzina costi così cara, ma quali sono i rimedi, come può difendersi un consumatore da questi rincari continui che tra l'altro vanno a gravare su una situazione di pressione fiscale verso l'automobilista già decisamente sostanziosa, ed è stato l'ACI nella fattispecie a puntare il dito sulla spesa totale per la vettura, per un'auto anche di media cilindrata, circa 3.500 euro. Secondo i nostri ascoltatori non è vero, secondo i nostri ascoltatori costa anche di più. Alcuni ci hanno segnalato che vanno aggiunte altre voci, e che chi deve viaggiare con una media di 30-40 km al giorno per spostamenti legati al lavoro deve inevitabilmente spendere di più. Chi è messo peggio di noi? Ci sono varie ricerche sui costi della benzina, il costo del carburante sempre analizzato oltre frontiera. C'è chi segnala di andare a fare il pieno in Slovenia, gasolio a 1,387, questo è Giampaolo, un sms che è appena arrivato. Ma il costo del carburante non dovrebbe essere preso come indicatore assoluto in sé, quindi ha fatto bene Bloomberg, che in una ricerca dal titolo molto significativo, si chiama Pain at the Pump, significa dolore alla pompa, quanto si soffre, ha preso sì il costo del carburante. Per esempio in Norvegia costa 2,02 euro, però l'ha anche relazionato al reddito giornaliero. Allora è vero, in Norvegia costa 2,02 euro, ma il reddito giornaliero è di 272 dollari, quindi non è il paese più caro, ma è il paese che di colpo scende al 43esimo posto se si mettono in relazione questi due indicatori. In Italia dunque, con i nostri quasi 2 euro, diciamo così, stiamo molto peggio, perché l'income, cioè il reddito medio in Italia, è di 93 dollari al giorno. E mettere in relazione i prezzi della benzina e del salario, cioè che percentuale dello stipendio utilizziamo quando dobbiamo rifornirci, è molto più indicativo. E che percentuale dello stipendio annuo utilizziamo per la nostra auto? Lo chiedo al presidente dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani. Pronto? Angelo Sticchi Damiani, che ci ha lasciato, mi segnalano dalla regia, o anzi, interpretando i segni, l'abbiamo riacciuffato al volo. Angelo, pronto? Sì. Quale percentuale dello stipendio l'italiano deve destinare al mantenimento dell'auto? Naturalmente dipende dallo stipendio, però considerando con un reddito medio calcolato dal Ministero per lo Sviluppo Economico di 93 dollari americani al giorno. 90 dollari americani al giorno, diciamo 70 euro più o meno. 70 euro di sì, sono tanti, 70 euro, perché 3 per 7 21 sono 2100 diviso, diventa qualcosa come 250 300 euro al mese. Sì, è troppo, cioè, è troppo, soprattutto come ha detto lei giustamente prima, per tutti coloro che non hanno la fortuna di vivere in una città che ha un trasporto pubblico locale e quindi ha delle alternative. E immagino la maggior parte degli italiani che non hanno alternative all'auto, allo spostamento in auto. Questo è il vero dramma. È chiaro che in città è più facile adottare comportamenti virtuosi, e sono stati anche sollecitati, stimolati da alcune amministrazioni, si pensi alle Domeniche senza auto di Milano, ma non solo, sono tanti gli esempi che hanno spinto gli italiani a cambiare un po' abitudine. C'è un'italiana all'ascolto, dice di vivere all'estero. Buongiorno Anna. Buongiorno, sono Anna. E vuole indicarci forse un comportamento o un provvedimento di qualche amministrazione che forse si potrebbe mutuare qua. Lei dove vive, Anna, innanzitutto? Io vivo a Lipsia, in Sassonia, in Germania. Quanti abitanti ha Lipsia, più o meno? Beh, è grande più o meno come Bologna, sono 500.000 abitanti. E che si fa lì per stimolare il rispetto dell'ambiente? È vero che Lipsia ha una rete di trasporti pubblici, di tram molto, molto efficiente, ci sono tram diurni più o meno in tutte le, in tutti i quartieri e anche tutti i giorni, durante le feste soprattutto si incentiva l'uso del tram anche per chi proviene da fuori con la macchina, può lasciare gratuitamente la macchina in un parcheggio e usare i tram pubblici per lui e per tutta la famiglia, quindi non cioè solo gratuitamente per il settore, ma anche quindi non pagano i biglietti in pratica? Non si pagano i biglietti, oppure si paga un biglietto per gli altri, gli accompagnatori sono gratuiti, senza contare anche per esempio l'Ips è anche molto importante per le manifestazioni musicali, no? La stagione concertistica, tutti i biglietti per esempio dell'Opera di Lipsia o della Gewandhaus valgono come biglietto per il trasporto pubblico, per l'andata e per il ritorno. Certo. Coloro che diventano utenti culturali di quella città non pagano il trasporto pubblico. Grazie ad Anna, buona giornata agli italiani all'ascolto che vivono all'estero. Sono tantissimi coloro che tornano per agosto e per l'estate e spesso danno questo tipo di stimoli. A Roma, nella capitale, invece c'è Maurizio. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma semplicemente un'osservazione. Prima avete parlato di accise, le accise sono tasse di scopo, come avete detto sì. Voi. Quindi nel momento stesso lo scopo è stato raggiunto, la tassa dovrebbe decadere. E non invece trascinarsi, lei dice, per decenni. La di Bissinia credo che sia finita da tempo. Quindi, anche a noi sembra. O l'emergenza del Vajont, quindi non so perché poi questo tipo di tasse non sia impugnato in sede legislativa, magari anche europea, non lo so. Grazie, grazie a Maurizio. Dichiarata tassa di scopo, nel momento in cui lo scopo è raggiunto, contrattualmente dovrebbe esserci un'interruzione dell'uso della tassa. E su queste accise, tra l'altro, ci dice anche un altro ascoltatore, non dovrebbe essere applicata l'IVA, basta con questa somma di imposte, ci segnala un SMS. Non vedo l'ora che ci siano le auto elettriche, quando saranno in commercio, chiede Massimo. Beh, veramente, sono in commercio da molto e che l'Italia è fanalino di coda anche su questo tipo di consumi. Si può tornare invece ai prezzi amministrati, perché sembra che la Francia stia percorrendo quella strada e il governo Hollande stia cercando di calmierare i prezzi. Carlo Rienzi, secondo lei, quando c'era il CIP, diciamo così, il comitato interministeriale dei prezzi fino al 1994 anche in Italia, il consumatore era più tutelato? Sì, era più tutelato perché c'era una commissione tecnica che guardava i costi, la Commissione Centrale dei Prezzi, di cui faceva parte anche un rappresentante del Codacons. Ma voi avete dato, senza accorgervi, due prove del fatto che il prezzo della benzina è frutto solo di speculazioni, quando avete detto che in Slovenia costa molto meno che in Italia e che in Norvegia costa più di 2 euro, quindi molto più. Avete dimostrato, siccome il prezzo del greggio in Europa è sempre uguale, che le compagnie petrolifere che fanno? Fanno quello che gli pare, mettono il prezzo che vogliono a seconda del potere d'acquisto del consumatore, cioè in Norvegia lo mettono più alto perché tanto, giustamente come avete detto, hanno un reddito molto più alto, $152 al giorno, in Norvegia lo mettono più basso, ma questo è il risultato dell'imbroglio, ecco perché bisogna tornare al prezzo amministrato, quando c'è un motivo di ordine pubblico che c'è qui, perché c'è un imbroglio, cartelli, organizzazioni dei petrolieri che porta a tenere alto il prezzo illecitamente, lo Stato dovrebbe intervenire e dire vabbè, allora per una volta vado contro la legge libero mercato e mi metto a controllare e faccio il prezzo io. Davide Tabarelli, secondo lei ci sono gli estremi per un intervento dello Stato e un ritorno ai prezzi calmierati, amministrati, diciamo così? Sì, ci sono e come, perché visto il disordine che c'è in giro con dei prezzi che io, guardi, sono in Salento, vedo qua giù del servito benzina oltre 2,1, non sono autostrade, fra l'altro voglio dire che in autostrade anche lì ci sono tantissimi punti vendita e la società Autostrade ha imposto alle compagnie sulle loro punti vendita di fare dei prezzi più bassi al di fuori rispetto a quelli che ci sono di fuori, perciò sulle grandi tratte, mi riferisco alla 1, lì ci sono dei prezzi più bassi, poi ci sono quelle altre parti di autostrada dove i prezzi possono essere più alti. La stessa maniera nei posti di vacanza ci sono dei prezzi oltre 2,1 sulla benzina, quando domani quando arriveranno i super sconti saremo a 1,65, cioè delle differenze dei 40 centesimi. Quando ci sono delle differenze così ampie vuol dire che il processo di libertà dei prezzi ha qualcosa che non funziona. Pertanto, visto che è un bene primario per gli italiani, che sono circa 40 milioni di italiani, forse è il caso di parlare di ritornare indietro di 30 anni a prima delle liberalizzazioni, cioè a prezzi amministrati. 40 milioni di automobilisti in Italia. Questi balzelli, che sicuramente sono complici dei rialzi, ma che non giustificano queste oscillazioni di 40 centesimi, come ha segnalato Tabarelli. E ci sono ascoltatori che ci fanno domande anche sulla le accise sul metano oltre che sulla benzina, perché sembra, così come abbiamo descritto finora la situazione, è chiaro, gli occhi puntati sono soprattutto sul prezzo della benzina, che gli altri carburanti siano risparmiati, è così Tabarelli? Sì, ci sono tantissimi distributori che fanno dei prezzi molto variegati e pertanto la ragione, molti consumatori hanno ragione a lamentarsi, ecco. La ragione fondamentale di questi rialzi è il prezzo internazionale, tuttavia, ripeto, lì c'è un prezzo del petrolio che è $110, 115, c'è un Brent, lì occorre fare molta attenzione ad individuare quali le ragioni primarie dei certo. rialzi dei prezzi. Beh, nominiamo anche i 7 centesimi del rafforzamento del dollaro sull'euro. Esatto, di quest'anno rispetto al 2011, perché a rigore di cronaca e per completezza dell'informazione quella è una voce che non abbiamo ancora citato nel corso di questa trasmissione. Sì, se avessimo adesso 1,22, se avessimo quello di 3 mesi fa avremmo 7 centesimi in meno di prezzo. E anche questo incide. Quindi, sintetizzando, Carlo Rienzi, un consumatore per difendersi può fare delle segnalazioni sul sito, ce lo ricorda ancora in chiusura di trasmissione, visto che scatteranno adesso tante foto con i telefonini a questi distributori di benzina che stanno superando, l'abbiamo sentito anche lì in Salento, i 2 euro al litro. Pronto? Carlo Rienzi? Sì, mi sente? Sì, noi sì, vorremmo sì, capire sì. dove segnalare questi abusi e queste speculazioni. Segnalare al blog carlorienzi.it, tutta una parola, carlorienzi.it, mandando anche le fotografie, e noi denunceremo questi alla Guardia di Finanza. Carlo Rienzi, lo ricordiamo, il presidente del Codacons, che è stato il primo ieri a lanciare l'allarme denunciando come sulle autostrade la benzina sia arrivata a costare 1,98 euro al litro, ma come avete sentito in moltissimi casi è stata superata anche la quota 2 euro. E una delle segnalazioni è naturalmente quella che porterà al sito dei consumatori e del Codacons. Un altro consiglio: andare ai distributori no logo. C'è chi ci scrive tenere il piedino leggero, vale a dire che se non si preme troppo sull'acceleratore si consuma anche di meno. Naturalmente l'auto elettrica è vista come la soluzione alternativa da moltissimi di voi che ci avete scritto. Un dibattito che abbiamo aperto oggi, ma che sono sicura tornerà anche nelle settimane successive a questi microfoni, proprio qui a Salvadanaio e in altre trasmissioni di Radio 24. Per ora ci salutiamo, l'appuntamento è per domani. Grazie a Carlo Rienzi, a Angelo Sticchi Damiani, a Davide Tabarelli, a tutti voi che siete intervenuti e da Irene Zerbini. Buona giornata.